24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Quella che c'era stata chiesta di mantenere è che ancora con dignità e onore per la propria nazione, onore per tutti i soldati italiani, onore per tutti i popoli del mondo, la continuiamo a mantenere. Abbiamo iniziato così oggi con Salvatore Girone, uno dei due Marò, insieme a Massimiliano Latorre, che ormai da 2 anni... Quanto tempo sono in India? Là! E dicono tutti, ci stiamo impegnando. Ieri 2 giugno, festa della Repubblica, collegamento con Salvatore Girone, Massimiliano Latorre. Salvatore Girone a un certo punto ha alzato la voce, abbiamo obbedito a tutti gli ordini e da 2 anni siamo qua, siamo ancora qua. Che facciamo per questi due Marò? Si sono succeduti ministri degli esteri e non so, la strategia, l'India, le difficoltà, per carità, ma stanno là, stanno là. Va bene, questo è 24 mattino, cari italiani, alle 6:32 minuti, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Pietro Lacorte in regia anche oggi. L'Alpino, dove l'hai messo l'Alpino? È a dormire, ma che a dormire, l'Alpino non dorme mai, l'Alpino starà bevendo un po' di grolla e bombardini. Va bene, questo è 24 mattino, apriamo subito il Parlamento perché oggi c'è un grandissimo ritorno. A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Che non è Nicole Minetti, il grandissimo ritorno è quello di Albertone Forchielli. Alberto, buongiorno. Ciao Lino, ciao. Come stai? Dove ti trovi intanto nel tuo peregrinare per il mondo? Sono a Hong Kong. A Hong Kong? Sono da Hong Kong. Sono andato a Pechino, poi sono andato a Shanghai, sono tornato a Pechino e poi sono arrivato a Hong Kong. Ah, ti hanno fatto rientrare in Cina? Ti hanno fatto rientrare? Sì. Lo sanno che sono così, che Paolo lo sanno, che sono un carattere diretto, diciamo. Diretto, abbastanza diretto. Forchielli, per chi non lo conosce, è abbastanza diretto. Ogni tanto ti fa quelle chiamate anche durante la giornata, poi quando lo disturbi un po' dice ma che era, adesso ti sa, boom, e ti sbatte giù il telefono in faccia. Questo è Alberto Forchielli. Allora, in Cina, come racconta oggi Repubblica, non avrai potuto menzionare la parola piazza Tiananmen, no? È vietatissimo. 25 anni fa, eh? Sì, beh, ma non si menziona mai, eh? Non si menziona. In tutti questi anni, sì. È come se è un episodio di grande vergogna, sarebbe come se un cinese venisse da te e ti chiedesse di Caporetto o ti chiedesse dell'8 settembre. E vabbè, che problema c'è? Se ne parla in Italia, no? Sì, no, ma anche per pudore, è una brutta pagina. Poi i ragazzi crescono in Cina senza storia, ossia a loro non viene raccontato né di Tiananmen né della rivoluzione culturale. Loro si fermano, l'educazione si ferma al secolo XIX, alle guerre dell'oppio, alla guerra col Giappone, alle grandi umiliazioni. Questo spiega anche perché crescono così nazionalisti. Cioè, tutti i danni del Partito Comunista vengono nascosti e invece vengono ingigantiti i misfatti orrendi fatti dalle potenze coloniali, Inghilterra, Giappone, Francia. per cui ovviamente questo alimenta un senso di rivalsa, un senso di nazionalismo, certo. Che lo vedi anche adesso, sentite tante manifestazioni. Senti, Alberto, no, è chiaro, poi veniamo a parlare delle cose dell'Italia, ma un'altra cosa mi ha incuriosito in questi giorni, una notizia dalla Cina, ed è questa. Ieri mi spiegava al telefono, se non sbaglio, che tra l'altro la Cina non riconosce, il Vaticano non riconosce la Cina, cioè insomma c'è ancora questi problemi. Ma che è successo nei giorni scorsi, addirittura delle chiese bruciate in Cina, chiese ovviamente cattoliche, chiese della nostra religione? Ma guarda, secondo me i cinesi hanno perso il gene della vergogna. Io sono stato a Pechino e per la prima volta in vita mia parlano del Papa Francesco, c'è tutto questo desiderio nascosto di avere un rapporto, Papa Francesco e Xi Jinping si scambiano delle lettere, non era mai successo prima, e compagnia. Poi dopo arrivo a Hong Kong, io ho sorpreso di questa cosa, arrivo a Hong Kong, parlo con i miei amici preti, dico, vabbè, per carità, sta succedendo il Dio di Dio, stanno tirando giù tutte le chiese, buongiorno, stanno nominando un cardinale a Sichuan che non va, c'è Duca, non va bene, figlio di Dio. Io dico, sono fuori di zucca, capite? Da un lato a loro rode il fatto che Putin vada al Papa, che Obama vada al Papa, vogliono essere grande potenza, per cui vorrebbero anche loro, capito? Ambiscono a essere ricevuti in piazza San Pietro. E poi, d'altro canto, capito, una persecuzione sulla Chiesa Cattolica che tradisce poi questo profondo anti-occidentalismo, capito? È comunque una religione vista come occidentale. Sono proprio fuori di tutto. Fuori di zucca. Io ci ho anche fatto una filastrocca. No, come una filastrocca? In che senso? Maramao, perché sei morto? Il Vaticano era nell'orto, pane e vino non ti mancava, se Bergoglio non arrivava. Insomma, adesso queste sono delle piccole, le piccole poesie di Forchielli dalla Cina. Vabbè. Allora parliamo di cose italiane. L'Unione Europea ha detto le riforme vanno bene, ma bisogna fare più sforzi, cari italiani. Indovinate un po' chi dovrebbero fare questi sforzi. Chi è che dovrebbe fare, secondo te, Alberto Forchielli? L'Unione Europea dice fate degli sforzi, italiani. A chi si riferisce? A chi toccherà farli questi sforzi? Ovviamente parlano al governo, perché il debito continua a aumentare, il deficit, il pareggio del deficit, cerchiamo di rimandarlo più di un anno, ma ormai siamo in un circolo vizioso, nel senso che se stringiamo e raggiungiamo il pareggio, l'economia non parte, il debito aumenta, capito? Se invece stimoliamo l'economia, il debito aumenta e l'economia riparte. Ormai hanno rimandato Renzi a settembre, di fatto, capito? Però secondo me neanche quelli della Commissione sanno cosa vogliono. Però hanno rimandato Renzi a settembre, ma Renzi in un retroscena di Repubblica ha detto non mi hanno imposto la manovra, ma se anche l'avessero imposta, questo è un retroscena, anche se me l'avessero imposta io gli avrei detto di no e gli avrei detto che non sono i nostri conti ad essere sbagliati, ma è l'Europa ad essere sbagliata. Tra l'altro senti Renzi al Festival dell'Economia di Trento due giorni fa, che cosa ha detto? Una battuta su qual è la prima misura economica. Qual è la prima misura economica? Sentite. E mi dicono, ma tu sullo storytelling insisti troppo. È la prima misura economica lo storytelling. Cambiare poi certo, devi far sì che i provvedimenti anticorruzione funzionino. Devi far sì che la legalità non sia uno slogan, devi far sì che l'efficienza della pubblica amministrazione ti consenta di intervenire, ma se non cambi racconto non andrai da nessuna parte. Cioè bisogna fare queste cose, ma la prima misura è lo storytelling, Forchielli, lo storytelling, non dice il racconto, non ho ben capito poi il senso di... Vuol dire fai vedere un sogno e così dopo la gente crede nel sogno, corre, lo raggiunge, questo è il significato. Ho capito, ma poi uno si sveglia, ragazzi, però. Sì, solo che, capito, i debiti non sono un sogno, non sono un'opinione, i debiti sono debiti e il debito italiano aumenta. Aumenta in valore assoluto e aumenta in percentuale al PIL. Quindi, indipendentemente dalla commissione, se continuiamo così, tra due anni siamo al 150%, insomma, capito, di debito sul PIL, tra due o tre anni. Giusto per essere ottimisti. Commissione o non commissione, capito? Ossia, a parte tutte le fandonie e le cose teoriche che quelli della commissione cercano di imporci o di dirci, però i debiti sono debiti, insomma, capito? Questo paese non sembra capace di uscire da questa cappa, da questo circolo vizioso. Vabbè, però adesso con questo 40% cosa dovrebbe fare Renzi, secondo te, visto che è forte di questo? Anche se, attenzione, io non ci volevo credere, ma da ieri alcuni del Movimento 5 Stelle hanno insinuato il dubbio dei brogli, e questa volta l'avevamo scampata, invece non la scampiamo neanche questa volta, i brogli, pare che ci siano i brogli. Vabbè, che dovrebbe fare Renzi? Guarda, lì c'è Grillo abbaia alla luna. Il vero problema dei 5 Stelle è che Casaleggio porta una sfiga peggio dello iettatore di Bonolis. Io questo l'ho capito. Quando Casaleggio, anni fa, si candidò come Forza Italia nel suo paese natio, prese 6 preferenze. Porca troia, neanche gli amici del bar, neanche i parenti, capito? Attenzione, perché però lui ha smentito di essersi candidato per Forza Italia, dice era una lista civica. Sì, capito, comunque 6 preferenze sono 6 preferenze, capito? 4 cugine, 2 nuore, capito? 3 amici del bar, 4 compagni di classe, almeno 20 o 30 le puoi portare a casa, ma 6 preferenze lo dico lunghe. Per me lui lì, tutte le volte che lo sento nominare, mi tocchi marrone. Adesso cos'era la domanda? La domanda era su Renzi, a dire la verità, ma sai, le cose da fare sono sempre le stesse, non è che sia cambiato. Io mi sono le famose riforme strutturali che ormai sono 30-40 anni, Banca d'Italia e compagnia. Il problema è che se Renzi prova a farle, perdi consensi. Ho capito. Perché il problema non è Renzi, il problema sono gli italiani che non hanno ancora capito che per uscire da questa situazione bisogna rinunciare, bisogna fare delle scelte importanti. Ogni scelta è una rinuncia. Ma rinuncia a che? A che, per esempio? Sì, io non ho voglia di farmi nemici per radio. No, adesso l'hai detto, il problema sono gli italiani, adesso vai avanti, devi petto in fuori, avanti, lancia in resta e petto in fuori. Ovviamente bisogna rassegnarsi alla patrimoniale, ovviamente ci vuole una maggiore flessibilità del lavoro, perché i lavoratori si devono poter spostare da un settore all'altro, perché l'economia cambia. Ovviamente bisogna mandare a casa, capito? Ormai abbiamo più forestali che tronchi d'albero, non è possibile in certe zone d'Italia, abbiamo più dirigenti della regione Sicilia che impiegati, a un certo punto bisognerà incidere su quelle spese lì, capito? Però se lo fa, se il lo problema fa della burocrazia, sì, certo. Della burocrazia è anche il fatto che gli impiegati statali sono lenti come la fame, capito? Però dici, se Renzi lo fa, perde voti, perde consensi. Vabbè, insomma, di Grillo, come dire, hai già detto abbastanza. Ecco, voglio ricordare il profilo Twitter di Forchielli, è semplice, è così, Forchielli, cari amici grillini, potete allietare la giornata a un Kong di Alberto Forchielli. Sei pronto? Sei pronto, Alberto? Sì. No, ma adesso subisco degli attacchi dagli anti-euro. Adesso sono loro che si coalizzano. Gli anti-euro. Cioè i leghisti. No, i grillini si sono calmati. Sì. Gli anti-euro, sì. Sì, sono loro che attaccano. E cosa ti scrivono? Cosa ti dicono? Che bisogna uscire dall'euro, queste cose qui. Però non è mica facile. Non è una scelta difficile. Sì. E tra il decidere se buttarsi sul treno o buttarsi dalla finestra. questa è l'alternativa. Vabbè, allora facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo con la segreteria telefonica. Siamo con Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia, e tra l'altro Alberto, ti chiederò tra poco di Alitalia, no? Perché arrivano gli arabi. Già in passato ci avevi regalato un paio di perle su Alitalia, anche lì quando vedo, mi ricordo la famosa frase: quando vedo la bandiera di Alitalia, cosa fai quando vedi la bandiera di Alitalia? Mi tocca il marrone da 30 anni, eccolo lì, va bene. 24 mattino. Allora, mi faccio fare una critica a Grillo. Possibile che una settimana fa, 10 giorni fa, profanava il nome di Berlinguer e adesso va con quel signore della destra estrema in Inghilterra? La domanda è: ma quest'uomo è normale? Il Grillo pirlante stavolta ha toppato, di cazzate abbondante è stato legnato. 5 stalle non funziona, l'ho appena dimostrato. Se tu perdi sei un mona, cambia tono, cambia stato. C'è una cosa che mi manda veramente in bestia, quando sento i ministri del governo Renzi e Renzi stesso che dice: gli elettori ci hanno chiesto le riforme, l'80% della gente è con le mie riforme. Ma scusami, ma come fa questo a dire che la gente vuole le sue riforme quando le ha solo enunciate, mai spiegate? Elettori che avete dato il 40% a Renzi, avete ascoltato Padoan dopo il 40% che ve lo infila là sotto col cavolo che è andato in pensione prima, Absalot. Ministri, ex ministri, giudici, magistrati ci vengono ciclicamente a predicare che bisogna combattere l'evasione fiscale e poi magari, come è avvenuto in passato, vengono beccati ad avere i conti cifrati in Svizzera. E tu, Milan, ce l'hai il conto cifrato in Svizzera per metterci i tuoi 2 eurini e non farteli tassare? Un saluto post elettorale ad Alessandro Milan e a tutti i suoi ascoltatori da me, che sono Silvio, e da Francesca. Ma no, ma questo è Dudu! Dudu, Cribio, mi tocca rifare tutto! Vabbè, geniale a suo modo questo ascoltatore. Ci sono arrivati anche i saluti da Silvio Berlusconi e Dudu, caro Forchielli. Va bene, ti stanno bene. Sai che Dudu ha trovato la fidanzata? Sì. Dudina? Sì, ho letto. Dudina. Sono informatissimo. Su Dudu e Dudina, leggi tutto. Vabbè, allora hai mai sentito questo? Ci scrive un ascoltatore via SMS, scrive: Alberto Forchielli presidente. Insomma, non lo so, se vuoi candidare. Hai mai pensato di candidarti in politica, Alberto? Guarda, piuttosto che al Senato su iPad, a casa su YouPorn. No, vabbè, questa diciamo. Io sono l'antipolitico, non ho nessuna capacità di mediazione, non ho nessuna pazienza, non riesco a stare a parlare con gli stronzi, invece la politica è esattamente questa. Ah, ecco, uno spaccato, diciamo, un editoriale sulla politica. Chi invece non si stacca dalla politica è Ciriaco De Mita. Ciriaco De Mita, sai che è stato rieletto a 86 anni a Nusco, dove è nato sindaco, no? Sentiamo un De Mita. Ma il mio impegno ha motivazioni diverse. Il tentativo, non so se riuscirà, di recuperare la politica alle spiegazioni dei comportamenti e alla individuazione delle soluzioni possibili. Eccolo lì, Alberto, hai capito il senso di... cold case, crime scene investigation, ha riesumato la salma di De Mita come sindaco di Nusco. È un episodio di crime... Di cold case addirittura di cold case. Ma è stato un presidente del consiglio. Bravo, il problema è che sono quelli dopo che sono dei cazzoni. Ah, cioè lui è il meglio, quindi. Ma dopo. Sì, beh, da Mita rispetto a quelli di oggi è un gigante. Allora vedi che... i politici erano dei giganti. Ma cosa manca? Cosa manca ai nuovi invece? Ai nuovi cosa manca? sia stato un degrado generale, sia un degrado generale nell'educazione, nella morale. Io onestamente De Mita lo rispetto, adesso magari a parte la gag, però la scuola si è deteriorata, poi in Italia questo bambismo fa sì che le generazioni successive siano sempre più deboli, siano sempre più viziate. Colpa del bambismo. I ragazzi inglesi, capito? Anche il figlio del re va in guerra, capito? Vanno nei college inglesi, nelle scuole inglesi alle 6 di mattina, vanno a correre d'inverno a piedi nudi sui sassi, capito? Noi invece li visiamo, tutti qui arrivano lì. Mammoni, popolo di mammoni. Vabbè, insomma, allora Alberto, per concludere ti voglio far parlare di Alitalia. Va bene gli arabi, va male gli arabi, il Fatto Quotidiano scrive che gli esuberi, quelli che Etihad vuole mandare via, dovrebbero essere 2200, non li vorrebbero più nella compagnia, e il Fatto scrive li pagheremo noi con nuove tasse sui biglietti aerei. Alla fine poi fa sempre così, io non ho capito. Beh, questo senz'altro, se non voglio entrare nel merito, se Etihad Air France, certo che noi stiamo aspettando quella lettera di Etihad come i bimbi della Namibia aspettano le pietre per costruire un asilo. C'era in prima pagina di tutti i giornali la vergogna di un paese che neanche si rende conto di doversi vergognare. Cioè, capito? Io trovo questo, l'Italia è una vergogna nazionale. Non andare in ultima pagina, non è possibile che tutti i media, ho visto la lettera, ho dato un'occhiata, ho visto la copia, ci diranno questo. È chiaro che gli esuberi li paga pantaloni, capito? Ma perché? Perché? Perché? Perché la cassa integrazione, tu dici già la cassa integrazione ma paga lo Stato. Ma pure in cassa integrazione per 12 anni, capito? Ormai non è questo il fatto, quello che invece io discuto è proprio, capito, è una roba di cui vergognarsi, e invece la dignità di un paese che non c'è, capito? Ma vergognarsi di cosa? Di avere una compagnia di bandiera? Ma vergognarsi di avere l'Italia, di essere ridotti così, no? Ossia una compagnia di bandiera che ormai, capito, ha bruciato decine e decine di miliardi, che è lo zimbello del mondo, dove in tutto il mondo fanno le barzellette, capito? Adesso... siamo inventati i patrioti, ci siamo inventati, è veramente una roba da così, da mettere sotto le cenere, da far passare, capito, l'ultima pagina. Vabbè, insomma, adesso però le barzellette sull'Alitalia forse non ci sono, però tu dici sì, e comunque quando prendi l'Alitalia da 30 anni ti tocchi in Maroni. E vabbè, Alberto Forchielli è così. Alberto, io ti devo salutare, come sai, quando vuoi questa casa è aperta, il Parlamento per te. Intanto noi andiamo al giornale radio, ci sentiamo subito dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti in punto, in questo istante, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali come di consueto a quest'ora. Vi ricordo anche gli ospiti e i temi che affronteremo dopo. Alle 8:30 parleremo di sciopero Rai, avremo Oscar Giannino, avremo il presidente della commissione vigilanza Rai Roberto Fico, avremo ospite Massimo Giletti, volto noto conduttore Rai. Alle 8:15 invece avremo ospite, l'abbiamo annunciata qualche giorno fa, c'è stata poi una testimonianza chiave che doveva fare Ornella Piredda, ex dipendente della regione Sardegna, del Consiglio regionale della Sardegna, che è la testimone chiave sui fondi, i fondi spesi in modo, come dire, un pochino improprio alla regione Sardegna, colei che si è messa contro il sistema per denunciare gli sprechi e le ruberie presunte dei partiti. Sarà nostra ospite alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 3 giugno i titoli sono quasi tutti declinati sulla questione europea e sulle raccomandazioni dell'Europa ai conti italiani. Il Sole 24 Ore, Unione Europea, riforme ok, ma fate di più sui conti. Questo è il titolo. Per il Corriere della Sera, l'Europa incalza ancora l'Italia. La Repubblica, l'Unione Europea, fate di più, ma l'Italia esclude la manovra bis. Il Messaggero, l'Europa chiede altri sacrifici, la Stampa, debito, servono più sforzi. Vedete che i toni sono tutti simili. Il Giornale, l'Europa sgonfia Renzi, più tasse. Il Secolo, l'Europa avverte Renzi, Libero arriva al conto degli 80 euro. Il Manifesto, rimandato a settembre, e c'è la foto di Renzi. Avvenire, Conti, duello Italia-Europa. Mentre per l'Unità, Italia ha i tempi supplementari. Anche il Fatto Quotidiano mette l'economia, ma una notizia invece diversa. Fisco, Renzi non vuole l'uomo di Tremonti, colui che dovrà sostituire Befera. All'Agenzia delle Entrate Padoan propone Marco Di Capua, ma è considerato troppo tremontiano da Renzi, che dice no. Però voglio partire da che cosa? L'abbiamo sentito anche in audio, quello che tutti i giornali definiscono l'urlo dei Marò. L'urlo dei Marò scuote la politica, così a pagina 5 del Corriere della Sera, ieri festa della Repubblica, la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, un pochino in sordina, ce la Spending Review, però ci sono comunque le polemiche di chi dice come il Manifesto, ma come non c'era la Spending Review, si è speso comunque troppo. Vabbè, al di là e al netto di queste polemiche, la notizia certamente del giorno è questo urlo che abbiamo sentito anche in audio, il tono molto concitato di Salvatore Girone, uno dei due Marò che dal 15 febbraio del 2012 sono in India per questa vicenda, sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani nell'ambito di un'azione antipirateria, e ha detto Girone: noi abbiamo rispettato tutti gli ordini, abbiamo obbedito agli ordini, il dato di fatto è che da 2 anni siamo ancora qui. Ovviamente la vicenda è sempre intricata e rimane intricata, come c'è stato cambio di governo, cambi di ministri. Come racconta Avvenire, in una pagina intera, a pagina 8, si riepiloga tutta la vicenda e dice il ministro della difesa Roberta Pinotti: abbiamo imboccato una strada della internazionalizzazione delle procedure, siamo fiduciosi, ma ci vorrà tempo. Ecco. Ci vorrà tempo, sono 2 anni che sono lì, ma ci vorrà ancora del tempo. La situazione non è certamente delle più facili. Vania Ardito Girone, che è la moglie di Salvatore Girone, viene intervistata da Marco Ventura sul Messaggero. L'intervista la trovate a pagina 6 e dice: rimandandoli a New Delhi ci hanno fatto una violenza. Si dice contentissima e fierissima: per la prima volta mio marito ha espresso il proprio pensiero. Una violenza familiare abbiamo subito, ma certo, mio marito in casa mia è entrato per 10 minuti. Quando è tornato il 10 marzo 2013, il governo annunciò che due Marò non sarebbero tornati in India, invece ha preso le valigie, è andato via, e vi lascio immaginare il dramma familiare, una violenza interiore per i figli. Mai avremmo voluto far vivere questo ai nostri figli. Posso dire che abbiamo vissuto questa cosa, ma non ricordo neanche in quali condizioni, non ricordo neanche con quali parole ci dissero che mio marito doveva ripartire. Certo, dice, il mio non è uno sfogo, non stiamo parlando di sfoghi, ma di vita vissuta e reale. Nulla nasce che per caso, almeno per Salvatore. È una persona molto equilibrata, attenta, un militare che ama il suo lavoro, lo amerà per tutta la vita. Nonostante tutto, lui spera di tornare a fare il fuciliere quanto prima. Dice ancora la moglie di Girone: la pazienza non è finita, questo mai, mio marito avrà ancora tanta pazienza. Ma è vero che sono due militari, ma sono anche due uomini lontani dalle loro famiglie. Ora anche in casa degli italiani è arrivata la sofferenza vera, perché noi non stiamo bene. E poi le frasi di circostanza: continuiamo a avere fiducia nella politica, insomma, che ci riporti a casa i nostri due fucilieri. Comunque questo urlo dei Marò che ha veramente scosso la festa della Repubblica ieri 2 giugno. Voglio saltare un altro argomento, molto popolare, che ha aperto un dibattito sui giornali ieri: l'intervento del Papa Francesco, che si è concentrato sulla vita senza bambini di molti italiani. Sapete che tra l'altro c'è il calo delle nascite certificato dall'Istat per svariati motivi, ci sono mille motivi diversi per cui non si fanno bambini, in alcuni casi proprio non si riesce, in alcuni casi è una scelta, in alcuni casi insomma questioni economiche, milioni di svariati motivi. Il Papa ha detto però una frase che critica l'edonismo di chi rinuncia ad avere figli. Con questo paragone, forse cani e gatti sono più comodi da amare. Questi matrimoni che non vogliono i figli, ha detto il Papa, che vogliono rimanere senza fecondità. La cultura del benessere di 10 anni fa ci ha convinto, è meglio non avere figli, è meglio, così tu puoi andare a conoscere il mondo in vacanza, puoi avere una villa in campagna, stai tranquillo. Francesco alza lo sguardo, sorride ironico, forse è meglio e più comodo avere un cagnolino, 2 gatti e l'amore va ai 2 gatti al cagnolino. È vero o no questo? Lo avete visto voi? E alla fine questo matrimonio arriva alla vecchiaia in solitudine con l'amarezza della cattiva solitudine. Così racconta Gian Guido Vecchi in pagina 17 del Corriere della Sera. E questa frase, anche Libero, dedica cane o gatto al posto dei figli, il Papa si arrabbia troppo comodo. Fa anche un po' arrabbiare Filippo Facci, che oggi in prima pagina di Libero dedica il suo commento, il suo appunto a questo tema. Il titolo è Figli da compagnia. Scrive Facci: va bene tutto, ma se il Papa si scaglia contro le coppie sposate che preferiscono cani e gatti ai figli, diventa difficile trattenere la penna. La ragione è chiara: non è che tante coppie preferiscono cani e gatti ai figli, è che non riescono ad avere figli e allora prendono cani e gatti. E non riescono ad avere figli spesso per via di una legge che proibisce la fecondazione eterologa, proprio la Chiesa ha fortissimamente raccomandato. Quindi è una crudeltà doppia quella del Papa, perché accentua il senso di colpa di chi non è riuscito ad avere figli perché non è ricorso all'eterologa, e poi sventurato si ritrova anche colpevole di essersi comprato un cane. Può anche darsi che esistano coppie indecise tra un figlio e un labrador, non so, io non ne ho mai conosciute. Forse è più comodo avere un cagnolino, ha detto il Papa. Sarà, ma mi permetto di prospettare che l'amore per gli animali e l'amore per gli esseri umani possano addirittura coesistere. Tra l'altro lo predicava un tizio, Francesco, pure lui, che di figli non ne ebbe. Poi certo esiste il problema della vecchiaia in solitudine, ma tanti di quei vecchietti che pascolano ai giardinetti col cagnolino, orridi Dudù, spesso hanno sì la vecchiaia, hanno sì la solitudine, ma hanno pure i figli. Così Filippo Facci su Libero. Ma certamente insomma questo tema lanciato dal Papa è un tema che fa discutere. A proposito di figli, sappiate che c'è chi ha fatto i conti delle famiglie italiane, quanto costa spendere per far fare ai nostri figli sport. È un qualcosa a cui l'Istat dice le famiglie rinunciano raramente, si rinuncia magari a tante altre cose, ma non a negare lo sport e le attività sportive ai figli, e questa è una cosa positiva. Cristiana Salvagni ne parla a pagina 21 di Repubblica. La spesa media delle famiglie nel 2014 sulle attività sportive dei ragazzi è 1000 euro l'anno, questa cifra è dell'Istat, 1000 euro l'anno, ovviamente tra certificati, attrezzature, corsi, il basket, c'è chi spende 450 euro il basket, la piscina costa di più perché la struttura costa di più, se arriva a fine 900 euro, comunque 1000 euro l'anno per nuoto e volley, che salasso lo sport dei nostri figli. Dunque si rinuncia poco alla spesa per lo sport dei figli, ma che spesa. Andiamo alla pubblicità, ripartiamo da che cosa? Dall'Europa, che raccomanda all'Italia nuovi sforzi. Indovinate un po' chi rischia di doverli fare. 24 mattino. E allora questa Europa, cari italiani, questa Europa che ci guarda, questa Europa che ci raccomanda, questa Europa che dice bisogna rafforzare i conti italiani, che vuol dire tutto questo tradotto in maniera pratica? Per alcuni è nuove tasse, nuove manovre, 9 miliardi da recuperare. Matteo Renzi e il ministro dell'economia Padoan, anche ieri in una nota il ministro Padoan dice assolutamente no, nessuna manovra aggiuntiva. Partiamo dal Sole 24 Ore. Beda Romano racconta le otto raccomandazioni che Bruxelles chiede all'Italia: potenziare le misure di bilancio già dal 2014, a pagina 3, rinvio pareggio, ok, ma rafforzare i conti. La Commissione Europea ha rivolto all'Italia 8 raccomandazioni, sottolineando l'urgenza di riformare il sistema bancario, pubblica amministrazione, mercato del lavoro, prevedendo volta per volta scadenze precise entro le quali adottare misure di riforma, sforzi aggiuntivi poi richiesti nel 2014. Delle 8 raccomandazioni, scrive il Sole, una sola è relativa alle finanze pubbliche, le altre riguardano l'economia nel suo insieme, fino a toccare il sistema scolastico. Certo, però c'è questi nuovi sforzi richiesti già nel 2014 che vengono tradotti da qualcuno, per esempio il Messaggero a pagina 3, un rischio manovra da 9-10 miliardi. In realtà, come detto, il ministro Padoan ha scongiurato questa manovra e tra l'altro racconta Repubblica in un retroscena, firma Alberto D'Argenio a pagina 1 e poi continua a pagina 2 e 3, che è stata per Renzi la notte della grande paura, la notte in cui la strategia politica ed economica del governo sarebbe potuta andare in fumo. A Roma lo spauracchio si chiamava Early Warning, il primo passo di una procedura europea per debito eccessivo che avrebbe legato le mani al governo, facendo tornare l'Italia sotto tutela europea. Così domenica notte le linee telefoniche tra Roma e Bruxelles erano roventi, con le chiamate di Padoan al commissario Olli Rehn per convincerlo che la politica del governo è credibile e porterà all'equilibrio dei conti. In quei minuti ad alta tensione un'altra riunione decisiva era in corso al quartier generale della Commissione europea, in una stanza a pochi passi da quella di Rehn. Se i contatti sull'asse Roma-Bruxelles avevano evitato il peggio, è stato lo staff del vicepresidente della Commissione Antonio Tajani a portare a casa il secondo cruciale risultato per l'Italia. Già, perché racconta Repubblica, la bozza di raccomandazioni preparata dal direttore generale di Olli Rehn, tra l'altro è un italiano, Marco Buti, era durissima con noi e non consentiva al governo di rinviare il pareggio di bilancio dal 2015 al 2016, ma gli esperti del gabinetto italiano sono riusciti a far togliere dal testo quel paragrafo. Cioè, capite, secondo Repubblica, quale scena anche notturna, con telefonate roventi e con la cercare di convincere il direttore generale del commissario Olli Rehn, l'italiano Marco Buti, a togliere alcuni paragrafi che sarebbero stati molto più duri. Tra l'altro Matteo Renzi, racconta sempre Repubblica nello stesso articolo, ha detto ai suoi che si dice soddisfatto, eccolo qui. Parlando coi suoi ieri, Renzi assicurava: a me va bene così, non ci hanno imposto la manovra, ma se anche lo avessero fatto non gli avrei dato retta, avrei risposto che non erano i nostri conti a dover essere corretti, ma che sono loro a dover cambiare. Vedete, insomma, la convinzione anche di Renzi di dire l'Europa deve fare delle modifiche. La fase decisiva della partita si sposta ora al 15 novembre, quando l'Italia dovrà trasmettere a Bruxelles la legge di stabilità per il 2015. E quindi vedete che le tensioni ci sono anche per il Corriere, il Tesoro, il piano per la crescita, la spinta del PIL eviterà la manovra. Questo è l'articolo a pagina 3 di Enrico Marro. L'idea è proprio questa: per Padoan il bisogno di una manovra aggiuntiva non c'è. Ma la manovra, ha confermato Padoan, non c'è perché il governo è sicuro delle sue stime di crescita, giudica che le stime di crescita di Bruxelles siano troppo basse perché non tengono conto di alcune voci relative a minori spese pianificate ma non ancora specificate nel dettaglio, e non tengono conto anche di maggiori introiti come quelli attesi dalle privatizzazioni di Poste ed ENAV. Dunque confida nella ripresa Renzi più di quanto non dica l'Europa, e dice la manovra aggiuntiva non ci sarà. Siete rasserenati, cari italiani? Non resta che attendere per alcuni giornali come Il Giornale e Subito, arriveranno nuove tasse. Tra l'altro sul fronte più economico, ma con un taglio diverso, Il Fatto Quotidiano mette una notizia in prima pagina che riguarda l'Agenzia delle Entrate. Sapete che Befera ha lasciato e bisogna trovare il successore. Sembrava tutto pronto per Padoan per nominare Marco Di Capua all'Agenzia delle Entrate, ma Renzi ha detto no. Questa secondo la ricostruzione del Fatto Quotidiano. E perché Renzi ha detto no? Perché Di Capua, che è il vice dell'Agenzia delle Entrate, è considerato l'uomo di Tremonti. Tutti i dettagli sono a pagina 8 con Marco Palombi. No di Renzi a Padoan, non dare le entrate all'uomo di Tremonti. Per Padoan sarebbe già chiusa la vicenda. Il nome indicato dal titolare dell'economia al Consiglio dei Ministri è quello di Marco Di Capua, vice direttore vicario dell'agenzia in ticket proprio con Befera, ma Matteo Renzi non è d'accordo, ha bloccato la nomina, ci tiene a farlo sapere. Pure Vincenzo Visco, se qualcuno glielo chiedesse, non potrebbe che spalleggiare il premier. Di Capua infatti fa parte di quel network tremontiano, definito così tra virgolette, che l'ex ministro tentò di scardinare nel 2006, finendo massacrato mediaticamente e politicamente. Dicono al Tesoro che la nomina del vice di Befera sia nel segno della continuità, vero, ma non è detto che sia un fatto positivo, e dunque c'è una battaglia in corso, secondo Il Fatto Quotidiano, sulla nomina dell'Agenzia delle Entrate. Battaglia in corso anche per lo sciopero della RAI, noi ne parleremo alle 8.30 e oggi parla il direttore generale della RAI Gubitosi, viene intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, detto che lo sciopero pare, secondo alcuni, rientrare, insomma, se l'Usigrai, cioè il sindacato della RAI, ha manifestato anche qualche apertura, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, per un piccolo passo indietro. Comunque Luigi Gubitosi parla al Corriere: abbiamo regole da ASL, bisogna ringiovanire l'azienda. Intanto chiarisce: questo sciopero è un errore, dice Gubitosi, la RAI fa parte del sistema, poi io vengo dal privato, sono abbastanza alieno al concetto di sciopero per una richiesta dell'azionista. La RAI va ringiovanita, dice Gubitosi, abbiamo una popolazione anziana, fa parte del piano e della natura delle cose ridurre una parte della popolazione più anziana e assumere dei giovani. Si parla di svendita sulla questione di Rai Way senza sapere il prezzo, a differenza di quanto ipotizzato in passato, parliamo del collocamento di una quota di minoranza. Rai Way è un piccolo gioiello, tanto che da più di 10 anni qualcuno tenta di comprarlo. Quanto conta di incassare? Non rispondo a questa domanda, non intendo commettere aggiotaggio diffondendo notizie sensibili. L'altro tema è quello dei tagli alle sedi regionali, si leggono, scrive Cazzo, di lussi, sprechi, sono dati tratti dal nostro piano industriale che già affrontava la questione delle sedi, alcune sono nate in un altro periodo storico, a Genova negli anni 60 lavoravano oltre 300 persone, oggi meno di 100. E beh, chiuderanno? Quindi chiede Cazzullo. Io parlerò di sedi regionali in consiglio e poi con l'azionista. Preferisco parlare non di tagli, ma di ottimizzazione e di crescita. E poi sulla questione politica, alla domanda: è vero che con Renzi non vi siete mai incontrati? Risponde Gubitosi: è vero. Gli ho chiesto in passato di vederlo per presentargli il piano in corso, ne ho poi parlato con altri esponenti del governo e quando lo riterrà opportuno ci incontreremo e gli presenterò la situazione. Così Luigi Gubitosi. Tra l'altro, a proposito di Rai, arrivano i saggi. Ah, sono rispuntati i saggi. Racconta Repubblica con Aldo Fontana Rosa. Ci sono un po' silenti fino a questo momento al lavoro, insieme al sottosegretario all'economia Giacomelli, che ha la delega sulla questione, responsabile per le comunicazioni. 9 saggi che stanno discutendo su come si riforma la RAI. Chi sono questi 9 esperti? Sono in prima fila il giurista Fabio Bassan, quindi Antonio Sassano, massimo esperto di frequenze TV, Matteo Maggiore, ex BBC, ora all'Ocse, il massmediologo Francesco Siliato, tra l'altro editorialista del Sole 24 Ore, poi gli ex consiglieri della RAI Balassone, Rognoni e quindi Stefano Cuppi, infine un dirigente della Agcom e un giornalista di punta di RAI International. I 9 saggi per la riforma della TV, mancavano i saggi per questo. A proposito di saggi, il nostro Mauro Meazza, saggerrimo. Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie. Sì, no, come vedi non abbastanza saggio per la RAI, però, perché non ho sentito il mio nome nell'elenco. No, vabbè, quindi... però c'è Siliato, scrive sul Sole 24 Ore, uno del Sole, uno l'abbiamo piazzato anche noi, no? In questa spoil system. Sì, no, la vedevo in una maniera un po' più egoistica e meno di squadra, ma non importa. Senti, volevo partire subito con le cose di servizio, perché oggi sul Sole 24 Ore c'è l'elenco completo dei comuni che hanno deliberato la TASI. Ah, la TASI, che è il dilemma di questa settimana, perché questa è una settimana decisiva. Come dici sempre tu, certo. Una settimana decisiva, ma non per quelle cosucce di cui tu fai cenno, riforma del titolo quinto, costituzione, province, no, una settimana decisiva per capire se e quando andremo a pagare la TASI e se ci sarà la proroga del modello unico, attenzione, per i contribuenti soggetti agli studi di settore, che comunque sono diversi milioni, quindi non proprio quattro persone. Questa è la settimana decisiva, quindi tieni il conto, mi pare che siamo già alla seconda, però sì. Teniamo questa contabilità parallela. Però ti voglio dire, due pagine con tutto l'elenco dei comuni, e poi nel corso della mattinata verrà disponibile sul nostro sito internet uno speciale che si chiama SOS Imutasi, dove si può un po' capire tutte le regole, ci sono anche le modalità di calcolo, non so, mi viene da dire, si chiama SOS Imutasi, ma SOS non è una nuova tassa, è proprio SOS. L'aiuto, no? Help. Help, esatto, no, non vorrei che qualcuno pensasse che c'è un ulteriore prelievo, no, non è così, però sul Sole 24 Ore, sole24.com, raggiungibile naturalmente anche da Radio 24 e viceversa, è tutto per capire, cercare di capire come va a finire la TASI. E poi oggi, insieme al Sole 24 Ore, hai trovato un libretto prezioso che è Il Principe. Il Principe, che non è caro la storia pur gloriosa di Diego Milito, detto Il Principe appunto, che tu sicuramente conosci, ma invece il prezioso volume di Niccolò Machiavelli. Quello che appunto consigliava al principe di essere volpe e leone, non so se ricordi. Credo che molti l'abbiano poi seguito Machiavelli, no? Ma insomma, vediamo se adesso il nostro Presidente del Consiglio prenderà ispirazione, gli abbiamo fornito anche il libretto oggi con il Sole 24 Ore, quindi vediamo se prenderà ispirazione per andare in Europa e, come dire, controbattere, ribattere alle raccomandazioni di cui facevi cenno poc'anzi. Ti piace poc'anzi? Poc'anzi, okay. bello. Sì. Poc'anzi, del 1400, un po' desueto, ma... sì, un po' ispirato al Principe, cosa vuoi, esatto, un volumetto del 1513, quindi è venuto anche il poc'anzi. Volevo darti una buona notizia: le donne nel consiglio di amministrazione, le quotate sono più del 20% che era stato fissato per legge. Abbiamo raggiunto il 21 e spicci. Quindi abbiamo fatto una legge che non serve poi di fare. No, abbiamo fatto bene, oppure potremmo dire che abbiamo fatto una legge che funziona. Che funziona. Vedi sempre come vedi il bicchiere mezzo pieno, bravo. No, perché salutare sempre le innovazioni in modo negativo? Sommato la legge ha funzionato, no? Siamo già, come dire, avanti sui nostri obiettivi. Ottimo. Bene. Abbiamo altro da dire o possiamo lanciare Lanciamo il nostro grido di guerra. Il nostro grido di guerra, andiamo. Traffico! Alle 7:48 minuti ancora la lettura dei giornali con Beppe Grillo, che io, ecco, su quando ho letto così la questione dei brogli, pensavo per una tornata elettorale di fare a meno di sentir parlare di brogli, invece eccolo qui, l'ultima di Grillo, brogli alle europee. Passo oltre, mi interessa molto di più l'intervista che il Corriere della Sera con Emanuele Buzzi fa a Nigel Farage, l'uomo che ha portato UKIP a un pieno di voti in Gran Bretagna e l'uomo che potrebbe stringere l'alleanza con Beppe Grillo a livello europeo e il Movimento 5 Stelle. Beppe è una mente politica acuta, dice Farage, sono relativamente fiducioso all'alleanza con il Movimento 5 Stelle, entrambi vogliamo che funzioni, ho conosciuto Grillo sono rimasto colpito quando l'ho incontrata, una mente politica acuta. E poi parla di, e si difende soprattutto dalle accuse di essere un estremista di destra, col dovuto rispetto dovrebbero smettere di ascoltare le informazioni sbagliate sullo UKIP diffuse dai nemici politici, ai grandi banchieri e burocrati a Bruxelles piacerebbe vederci divisi. Lo UKIP non è né di destra né di sinistra, dice Farage, noi siamo oltre la semplice classificazione, ma soprattutto vogliamo una democrazia nazionale per la nostra gente, non siamo omofobici e non siamo razzisti. Risponde così, è completamente falso, come Grillo sono stato ingiustamente demonizzato da mezzi di informazione ostili, disprezzo il razzismo, siamo un partito non razzista, non siamo per nulla omofobi, uno dei nostri europarlamentari, lo scozzese David Coburn, è dichiaratamente gay, abbiamo tra gli europarlamentari un musulmano pakistano dello Yorkshire, un meticcio dal nord-ovest, esercitiamo la diversità e non ne parliamo solo. E poi l'ultima domanda, lei ha parlato di salario differente per le donne, in Italia la parità di genere è un argomento al centro del dibattito sociale, ne è ancora convinto, risponde Farage, non ho mai detto ciò, sostengo una paga identica per un identico lavoro per entrambi i sessi, la mia frase era riferita a un caso specifico, ci opponiamo alla discriminazione in tutte le sue forme. Vabbè, insomma, stando a Nigel Farage in questa intervista è tutto falso ciò che alcuni mezzi di informazione ostili, come li definisce lui, definiscono di lui stesso. A proposito dell'Europarlamento, c'è un giallo legato a Barbara Spinelli, eletta per la lista per Tsipras, aveva detto in caso di elezione rinuncerò al seggio per lasciare spazio a giovani. Monio Vadi ha detto la stessa cosa e infatti ha rinunciato. E Barbara Spinelli però intervistata in un giornale greco, il giornale Avghi, ha detto non ho ancora deciso, sto avendo molte pressioni e ho ancora riserve. Ma come? Si rimangia la parola? La Spinelli parte per l'Europa, ci ha preso tutti per il sedere, così titola Libero, oppure anche il giornale Spinelli si rimangia la parola, non molla al seggio europeo. A dire la verità non ha ancora deciso di rimanere, ma certo questo balletto stupisce un po', perché aveva detto rinuncerò al seggio. Trovate molto ancora di Alitalia ovviamente sui giornali, il Fatto Quotidiano, vi segnalo due articoli, Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore che è andato a Doha dove c'è la riunione della IATA, tutte le compagnie mondiali, non c'è però il rappresentante dell'Italia, ma è riuscito ad ottenere qualche piccolo colloquio con James Hogan della Etihad Airways, potremo parlare con più calma quando verrò a Roma, penso tra un paio di settimane, così dice Hogan. E secondo il Fatto Quotidiano invece pagheremo noi con una nuova tassa sui biglietti aerei gli esuberi di Alitalia, ma è ancora presto per parlarne, staremo a vedere. Mi interessa invece ciò che Nicolò Zancan scrive sulla Stampa, una storia davvero incredibile, pagina 19. È la storia del vigile urbano della sezione ambientale di Acerra, Michele Liguori, che è morto a 59 anni per un raro tipo di tumore al fegato. Era colui che andava nella cosiddetta terra dei fuochi a controllare, a fare il vigile ambientale. È stato citato dopo la morte anche dal capo della Repubblica Giorgio Napolitano per il suo servizio nei confronti delle istituzioni. La storia è questa, ucciso dai veleni della terra dei fuochi, ma l'assicurazione non lo risarcisce. Negato l'indennizzo ai familiari del vigile ambientale morto per un tumore. Con queste parole esatte, scrive Nicolò Zancanti, dicono che sei morto per niente. Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita e ai superstiti, in quanto la morte non è riconducibile all'evento. Sei morto perché dovevi morire, non perché per 13 anni hai messo mani e piedi nei rifiuti tossici. Michele Liguori era un vigile urbano di Acerra, unico agente della sezione ambientale. Tornava a casa con le scarpe liquefatte, faceva sequestri, denunciava, doveva lasciare i vestiti fuori dalla porta, era deriso dalla camorra perché non si era lasciato corrompere, cercando discariche e chiedendo bonifiche si è consumato sotto gli occhi della moglie Maria e del figlio Emiliano. Anche Napolitano l'ha citato, ma il primo tentativo della famiglia di veder riconosciuta la malattia professionale è andato male. L'INAIL di Nola ha risposto: la morte non è riconducibile all'evento. anche questa è storia di Italia. Vabbè, c'è un'insana passione degli italiani e dei mezzi di informazione per tutto ciò che succede alla monarchia, nelle varie monarchie del mondo, e quindi se volete ci sono anche ben 4 pagine di Repubblica sul fatto che abbia abdicato re Juan Carlos e c'è un nuovo re in Spagna, vale a dire Felipe. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, al momento dell'articolo più inutile trovato oggi sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate sempre, stiamo per assegnare la coppa dell'anno, in testa per ora c'è il giornale, ma oggi vince Mario Aiello su Il Messaggero con un articolo di quasi un'intera pagina sulla lunga marcia pop di Matteo, tra selfie, baci, maglia della salute, cammina tra la gente, presenta il presidente grasso ai turisti. He's our president of Senato. Si fa i selfie, mette la maglia bianca, gli gridano tieni duro, e lui, e che te vedi, sembro molle. E poi a Matteo, sveglia il sindaco di Roma. Insomma, Matteo Renzi è il bagno di folla. Ma siamo alle agiografie, alle agiografie. San Matteo, aiutaci tu. E dai su, che la carta costa, lo sappiamo. Andiamo al giornale radio. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci, sono le 8:19. Dietro alle vicende, alle notizie di cronaca che leggiamo sui giornali, spesso ci sono storie di persone con nome e cognome, persone che magari raramente emergono alla luce. Un esempio: da mesi i giornali raccontano degli sprechi dei consiglieri regionali, l'utilizzo di soldi nostri, soldi pubblici, per spese loro, e infatti in molte regioni ci sono dei consiglieri che sono indagati per questo e anche sotto processo in alcuni casi. Succede anche in Sardegna, dove abbiamo denunciato, abbiamo letto magari con un sorriso molto amaro e con tanta rabbia delle feste con i maialetti e le pecore arrostite, le penne da 700 euro, le ciotole in argento comprate, i viaggi, tutto a spese nostre secondo l'accusa. E se sappiamo molte di queste notizie lo dobbiamo a una persona che viene definita la super testimone o la testimone coraggio. Si tratta di Ornella Piredda, che oggi è nostra ospite. Saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Alessandro. Grazie di essere qui. Lei è ex dipendente del Consiglio regionale della Sardegna, che anche venerdì scorso ha testimoniato per tutte queste spese pazze. Ma intanto chi gliel'ha fatto fare? Glielo posso chiedere brutalmente. La mia coscienza, semplicemente, non so dare altra risposta, trovavo tutto estremamente ingiusto. Tutto ingiusto. Lei ha detto in varie interviste, non immaginavo una corruzione tanto vasta, ma è davvero così vasta la corruzione che lei ha visto? Sì, da quello che leggo sì, poi avendo lavorato 15 anni in consiglio regionale, poi rispetto alle notizie che ho letto anch'io, ho fatto anch'io delle connessioni, quindi diciamo che posso asserire che in effetti la corruzione è molto vasta. È molto vasta, ma è davvero così facile fare le truffe, poi c'è un processo in corso, cioè appropriarsi di soldi pubblici, è davvero facile, come si fa? Beh, basta essere legislatori e quindi fare le leggi e quindi poter avere la possibilità di fare le leggi per la propria convenienza. E questo è stato il caso in Sardegna, dove un regolamento probabilmente che potrebbe essere interpretabile ha dato questa possibilità. Però voglio dire, se io sono consigliere regionale ci sono delle regole da rispettare, aggirarle è semplice? Per il legislatore sì, perché appunto, come ripeto, il legislatore fa le leggi. Quindi facendo le leggi può fare le leggi per propria convenienza. Tutto sta ai cittadini fare attenzione, informarsi. Certo. Per questo che ho parlato, anche per informare. Qual è la spesa più incredibile, la spesa più pazza che si è trovata di fronte? Insomma, poi le ha letti anche lei i titoli sui giornali, no? La gente magari sorride, dice ma come, le feste con i maialetti, magari viene da sorridere, in realtà sono poi soldi pubblici, c'è poco da ridere, no? Sì, beh, io non credo che ci si debba soffermare su una in particolare per quanto eclatante. Di fatto negli anni Almeno io ho visto che da un punto di vista etico le spese erano tantissime ed erano sicuramente spese di privilegio, non spese necessarie e soprattutto non necessarie per la comunità. Quindi citarne solo una sarebbe riduttivo, diciamo. Ingiusta rispetto alle altre. Ma è colpa, secondo lei, delle persone, cioè della classe politica o del sistema che genera questa situazione? Io credo che prevalentemente sia il sistema, perché io ho visto tante persone entrare in consiglio regionale, insomma, le persone per bene, persone oneste che avevano un passato di una carriera, una professionalità impeccabili. E sinceramente ho visto nel giro di pochissimi mesi, 3-4 mesi, queste persone trasformarsi. Quindi in parte credo, in buona parte credo che si tratti di un sistema. Poi ovviamente questo non è comunque per giustificare l'azione personale, individuale di ognuno, che comunque ha la capacità di scindere, di valutare, di scegliere. Certo. Da quando lei ha denunciato Piredda sono arrivate delle situazioni, ovviamente lei ha parlato di minacce, anche ha fatto una causa per mobbing, è tutto accertato, ha detto erano arrivate al punto in cui imbiancavano tutti gli uffici tranne il mio, mi hanno messo in un sottoscala, mi hanno tolto parte dello stipendio. Questo è stato il modo in cui ha reagito il sistema, io lo chiamo così? Sì, diciamo che denunciare una cosa del genere ovviamente comporta pagare dei prezzi. Questi prezzi sono piccoli, medi, grandi. Tanti piccoli ne fanno anche uno grande, questo di imbiancare la stanza, di non imbiancare la mia stanza ovviamente può anche far sorridere, perché non è di certo una violenza. Però tanti di questi piccoli episodi protratti nel tempo, negli anni, fanno sì che una persona si senta veramente trasparente, non considerata e anche umiliata nella propria professione, nella propria dignità di lavoratore. Sì. E questo certamente. Eppure lei anche quando ha varcato venerdì scorso l'uscio del tribunale lo fa convinta, insomma, di quello che ha fatto e che continua a fare? Assolutamente sì, e continuerò. Nonostante si continui nei miei confronti un'operazione di calunnie, di azioni, di minacce più o meno velate, io continuerò sempre. Ho continuato da sola sino a un anno fa, nel silenzio tombale di tutti, dei cittadini, l'istituzione. Si figuri se non continuo oggi, che ho un supporto incredibile da parte di tantissimi cittadini. Per esempio, è nata su Facebook, vedo, ma ci sono un po' ovunque, un gruppo Siamo Tutti Ornella Piredda. Sì. Si sente in qualche modo più supportata anche nelle denunce che fa, se sente l'appoggio, sì, della gente? Sì, assolutamente sì, perché adesso anche gli altri parlano, gli altri sono con me. Io quando sono arrivata venerdì scorso in tribunale ho trovato tantissime persone, tante facce amiche, alcuni sconosciuti ma che sentivo ugualmente amici, e quando mi sono seduta nella sedia calda, anzi bollente, del tribunale, dell'aula del tribunale con la mia testimonianza, io ho voltato lo sguardo e ho visto che ero tra amici. Quindi mi sono rasserenata immediatamente e ho detto è giusto. C'è qualcuno nel mondo della politica che sotto sotto, ovviamente non pubblicamente, le ha detto fai bene a dire queste cose? Sì, me l'hanno detto, ma sa, le cose dette privatamente, cioè un politico deve assumere una posizione pubblica. Non è sufficiente che possa dire a me hai ragione, piuttosto che fai bene, magari no, però hai ragione sì, me l'hanno detto in tanti. Hai ragione sì. No, ma è chiaro, dire poi pubblicamente sarebbe la vera sfida, perché un conto è dirlo, diciamo, no, non privatamente. Ne vale la pena quello che sta facendo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche se in un'intervista ho letto che lei dice mi hanno rovinato la vita in questi 8 anni dopo le denunce. Sì, ma la mia è una vita, una vita che vale, ovviamente ogni vita vale, però se questa denuncia deve servire, e servirà come credo, perché non credo che rimarrà inutile, servirà per tante vite, ne vale sempre la pena. Quando legge quegli articoli e quei titoli sui giornali, spesso si ironizza molto anche sulle spese delle regioni, in questo caso della Sardegna, cosa provava? Ma io mi sono sempre occupata del sociale in tutta la vita, è stata sempre la mia passione, quindi occuparmi in particolare degli ultimi. E quando io leggo, vedo e sono consapevole della realtà che viviamo, vedo le facce, le persone che mi sono rivolte a me in tutti questi anni e che sono gli ultimi della società. Stiamo parlando di estremi poveri, stiamo parlando di invalidi, stiamo parlando di persone che vorrebbero riabilitarsi, ex tossici, ex carcerati, insomma tutte le persone che vivono ai margini della società, le famiglie che non riescono ad andare avanti. Ecco, quando io leggo tutto questo vedo le loro facce e quindi qualsiasi cosa io possa fare per loro io la farò sempre. Quanti consiglieri sardi sono a processo per le sue testimonianze? A processo sono 18, uno è già stato condannato, però indagati sono praticamente quasi una novantina. E niente, noi, io, che dire, l'ultima domanda la devo fare. Spesso si dice non sono le province, sono le regioni che andrebbero cancellate. Per questo sistema, per come è, andrebbero cancellate? Comunque, cioè, è sanabile questo sistema che lei ci ha raccontato? Sì, io credo che sia sanabile, però non è sanabile dalla parte di chi delinque. È sanabile dalla parte sana della società. E però ci ha detto che ha visto tante persone oneste che sono entrate e poi, come dire, il sistema le ha un po' agocitate. Sì, però noi, deve partire da noi. Lei consideri che anche nelle ultime elezioni, sia nazionali che regionali, sono stati eletti degli indagati, sono stati eletti dei rinviati a giudizio. Quindi se permetti, io dico ai cittadini, cioè, pensiamoci bene a chi diamo il voto. Questo certamente su tutto. Intanto noi ad ogni livello, non so, cioè destra, no, sinistra, certo. È trasversale la cosa. Certo, la consapevolezza di chi si manda, esatto. Di chi si manda al potere. Intanto noi, io la ringrazio molto, ovviamente in bocca al lupo e seguiremo questa vicenda, Ornella Piredda, anche noi. Grazie, non abbandoneremo questa vicenda e la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo, Ornella Piredda viene definita così la super testimone, la teste chiave per le vicende delle indagini di di molti molti consiglieri sardi, 18 a processo ma 90 tra tutti gli indagati. Dopo la pubblicità rientriamo invece per parlare di RAI, avremo il presidente della commissione vigilanza RAI Roberto Fico, avremo Massimo Giletti, avremo Oscar Giannino per parlare di questo sciopero. 24 mattino. Eccoci qua nuovamente in diretta alle 8:36 minuti. Voglio salutare anche Oscar Giannino che mi ha raggiunto qui negli studi di Radio 24. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Parliamo un po' di RAI. Voglio salutare soprattutto il direttore, l'ho fatta direttore, Fico. Buongiorno, presidente della commissione vigilanza RAI, Roberto buongiorno. Fico del buongiorno, Movimento 5 Stelle. Allora, mi ha un po' colpito, Fico, leggere che lei è a favore dice lo sciopero della RAI è giusto. Oggi, guardi, anche il direttore generale Gubitosi al Corriere esordisce in un'intervista dicendo così: questo sciopero è un errore. Perché lei lo difende? Io difendo la parte dello sciopero e del contenuto che vuole difendere l'infrastruttura pubblica Rai Way, perché noi dobbiamo dividere in questo caso in due punti fondamentali. Il primo punto è che levandomi in questo presente 150 milioni di euro alla RAI vai a svendere l'infrastruttura pubblica perché devi fare cassa immediatamente e sappiamo che quando tu devi fare cassa immediatamente chi se ne avvantaggia è sempre il compratore, non il venditore. Allora, anche, se, momento... anche se Gubitosi dice nessuno sa a quanto conto di incassare dalla vendita di Rai Way, e non lo dico certo sempre in questa intervista perché non voglio fare aggiotaggio, quindi si parla. Sì, questa questa discussione l'abbiamo già avuta in commissione proprio con il direttore generale e personalmente continuo a non essere d'accordo, perché se tu soprattutto a metà anno perdi come mancato incasso 150 milioni di euro che erano stati già programmati, tu vai a svendere un tuo bene, e questo bene è un bene, è un asset strategico italiano, sono le nostre antenne di trasmissione, che sono disseminate su tutto il territorio nazionale e sono senza dubbio un asset strategico che potremmo noi in forma pubblica mettere a reddito. Quindi il principio è: la RAI si può anche riformare, ma non a metà anno, non le si può chiedere di fare sacrifici, altrimenti si svende un asset pubblico. La RAI non va anche riformata. La RAI va assolutamente riformata, deve essere trasformata, deve cambiare, devono cambiare il numero secondo me delle testate giornalistiche, bisogna fare una riforma della governance della RAI e bisogna ridurre gli appalti esterni che oggi ammontano a circa 1,3 miliardi, sì, e quindi poi riorganizzare le sedi regionali, il personale interno, ci sono moltissime cose da fare, però il punto è che secondo me dietro i 150 milioni di euro non si nasconde una, non si va a fare una revisione della spesa o una riorganizzazione della RAI, ma si va a svendere il bene pubblico. Una svendita del bene pubblico. Tra l'altro si dice molto spesso della privatizzazione, vorrei chiedere a Oscar Giannino, ma conviene comprare la RAI, dati economici alla mano, conviene e converrebbe a qualcuno? Comprare la RAI? Perché chi è che ha mai aperto questa possibilità? No, privatizzare la RAI. Chiacchiere, come fanno i politici, come chiacchiere. Sempre. No, chiacchiere, quel trone la voleva privatizzare, adesso no. No, guarda, il problema è, lasciami dire una cosa però, con grande rispetto per la responsabilità istituzionale del presidente Fico, il punto è che il governo ha detto: guardate, 150 milioni dove la RAI li deve contribuire come tutti, perché sì, tutti tirano la cinghia e anche la RAI. E poi ha dato delle indicazioni, tra le quali c'è anche i proventi dall'operazione Rai Way, che, come il presidente Fico sa, la RAI indica da anni come una possibilità. Non è che ha detto cedete le antenne, c'è anche forza le sedi regionali, esatto, quello. Quindi da questo punto di vista invece la risposta di chi vuole lo sciopero, adesso vedo tutti che si squagliano, no? In RAI, sì, infatti però non è ci stata sarà, no, forse. Perché dicono noi non siamo tenuti a contribuire agli sforzi di contenimento della spesa perché siamo esterni al perimetro pubblico, è incostituzionale chiedersi. Questa è una pretesa da miserabili. È interessante. Miserabili. Secondo il presidente Fico, il concetto di dire la RAI non deve contribuire, c'è stato fatto anche credo un parere di anticostituzionalità chiesto dal sindacato della RAI, l'Usigrai, a dei costituzionalisti. Invece, secondo lei, deve contribuire anche la RAI oppure è potrebbe profilarsi un'anticostituzionalità nel chiedere soldi anche alla RAI? No, ma la RAI deve contribuire a tutto, non è questo il problema, perché stiamo parlando di un qualcosa che in questo momento è falso, perché, come ripeto, tu non solo prelevi 150 milioni di euro alla RAI in questo momento, ma suggerisci, perché se si va a leggere l'articolato del decreto IRPEF, proprio la vendita di società controllate della RAI, e poi suggerisci che sia proprio la società pubblica Rai Way ad essere venduta in quota minoritaria, e il consiglio di amministrazione si riunisce nell'immediato, dà mandato a Gubitosi di trovare l'advisor. Gubitosi trova l'advisor che è Leonardo e cercano di chiudere questa operazione velocemente per fare cassa entro dicembre. Per non toccare le spese ordinarie, A, B, senza perdere il controllo. Presidente, ma lo perde il controllo di Rai Way? Lo perde il controllo di Rai Way? Lo perde il controllo? Non lo perde, l'ha detto lei che è minoritario, no? Con calma. Allora, in Italia noi sappiamo benissimo come si inizia, per esempio in Piemonte ma anche in Campania le partecipate sono diventate poi a maggioranza privata, si inizia con una quota e poi si va avanti, perché una quota minoritaria potrebbe essere anche il 49% e sappiamo che il 49%, poi dobbiamo andare a leggere i patti parasocietari, che magari c'è un accordo tra pubblico e privato che va a finire che per prendere qualsiasi decisione bisogna avere il 67% degli azionisti che devono concordare, e poi dobbiamo remunerare il capitale alle persone, sì, alle società. Certo, perché le società questo dovrebbero fare, non distruggerlo. Quindi, come no, fa allora la RAI. Io le dico una cosa: noi possiamo in quel caso lì proprio di Rai Way poter puntare sul 4G, sulla rete wifi, sulla telefonia, può la RAI fare degli investimenti in questo senso. E intanto può ridurre tutti gli appalti esterni che sono sproporzionati rispetto al numero di dipendenti. Lei agirebbe su questo, ecco, perché infatti io agirei su questo e sulla riorganizzazione delle. Ma allora se la deve prendere con Gubitosi, non con il governo, che non fa quello che dice lei. No, io me la prendo anche con il governo, perché per trovare le coperture degli 80 euro del decreto IRPEF. Cioè, si chiede di svendere, si chiede di svendere. Ma infatti lei ha preceduto la domanda, visto che lei dice deve contribuire anche la RAI, lei suggerisce per esempio maggiore trasparenza e risparmio sugli appalti esterni che non conosciamo neanche, no? Perché è una vecchia battaglia quello della trasparenza. Ma cioè, questa azienda non pubblica i compensi dei dirigenti e di coloro che collaborano all'esterno dicendo che è per privacy. Infatti, perché non si riesce? So che Presidente Fico, lei vuole da questo punto di vista... rompe questo muro? Non si riesce a rompere? In questo caso proprio, parlando degli stipendi dei non solo i dirigenti, ma di tutti i dipendenti, di qualsiasi persona intrattenga rapporti consulenti, di lavoro con la RAI, eccetera. Consulenti, tutti, noi abbiamo la legge del 2014 e l'abbiamo citata e richiamata proprio nel nuovo contratto di servizio, questo l'ha fatto la mia commissione che io presiedo, la vigilanza, e ora il contratto di servizio è al Ministero dello Sviluppo Economico che devono ratificare per chiuderlo con la RAI, e nella legge, nel contratto di servizio, è il Ministero in questo momento della funzione pubblica, dell'economia e dello sviluppo economico che possono per legge, quindi devono avere per forza tutti questi dati dalla RAI e possono pubblicarli. Quindi in questo momento anche la vigilanza ha fatto tutto il suo percorso. E perché cosa manca? Cosa è l'ultimo miglio che ci impedisce di conoscerli questi dati? Secondo me nessuno, ora il governo lo potrebbe fare da domani mattina, sia per legge sia per contratto di servizio. Ecco, e quindi lei ha fatto un appello a Renzi, ha chiesto al governo di farlo? Al ministro della funzione pubblica, al ministro dell'economia e al ministro dello sviluppo economico. Insomma, attendiamo da questo punto di vista, perché effettivamente è semplicissimo. Ma io posso fare una domanda al presidente? Secondo lei sarebbe improprio, infame l'idea che quando il governo ha detto che vuole anticipare la scadenza della convenzione scade il 2016, cioè il 2015, l'idea di metterla a gara tra tutti quelli che vogliono partecipare a un servizio pubblico fatto di elevato standard di servizio e fatto con il canone senza pubblicità, tutti possono partecipare a una gara così, i privati italiani, coi gruppi internazionali e anche la RAI. Pensare a una cosa simile, che secondo me sarebbe la cartina non solo per ridefinire il servizio pubblico, lei prima ha detto bisogna ridefinire le testate, io aborro l'idea che i politici si mettano a dire quante devono essere le testate, perché non è il mestiere loro. Questa idea di fare del rinnovo della concessione una ridefinizione con una gara aperta, secondo lei è impossibile, o ha sbagliato addirittura? Ma ridefinire le testate non significa che uno vuole mettere mano all'informazione, significa che le testate sono davvero numerose, e allora quando parli di una riorganizzazione aziendale cerchi di parlare anche della riorganizzazione delle testate editoriali, mi sembra di base. Io però sul rinnovo della concessione, sulla scadenza della concessione e la partecipazione al bando anche da parte dei privati, devo comunque prima avere sul piatto e sul tavolo del Parlamento la legge sul conflitto di interessi e normative antitrust, secondo me, più stringenti, perché altrimenti poi siamo punto e da capo. Bravissimo. Allora è questo. E questo è il punto fondamentale. Potremmo prendere due piccioni con una fava, per così dire. Se non riusciamo ad avere in Parlamento queste due normative serie, finalmente all'avanguardia come altre democrazie occidentali, allora poi non possiamo parlare neanche di trasformazione della RAI in questo senso. Va bene, nel ringraziarla e salutarla, Fico, mi dice, anche se non c'entra con la RAI, se lei voterà sulla rete per l'alleanza con Farage, visto che è l'altro tema. Siamo proprio all'inizio delle consultazioni, poi quando arriviamo vedremo. Non ha ancora deciso, insomma, si deve informare su che tipo è. Oggi sul Corriere c'è un'intervista. Intanto la ringrazio, Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI. Dobbiamo andare al traffico, ma rimane Oscar Giannino e ci raggiunge tra poco un volto noto, conduttore della RAI, Massimo Giletti, è juventino, ma lo abbiamo chiamato lo stesso. Accidente. Allora, siamo qua alle 8:49 minuti, io e Oscar Giannino, abbiamo chiamato anche se è juventino Massimo Giletti, va bene, li vogliamo bene lo stesso. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, oggi stavamo prima parlando con il presidente della Commissione Vigilanza Rai, Fico, e oggi Luigi Gubitosi, direttore generale della Rai, fa un'intervista al Corriere a dire anche i conduttori tagliare lo stipendio. Insomma, ma questa Rai deve dimagrire, devono contribuire tutti, Massimo? Ma non lo so, cioè in un periodo di crisi ogni azienda sta lottando col sistema con la competizione di oggi, quindi con le difficoltà di oggi. Non vedo perché la Rai non debba lottare anche lei e fare dei tagli, è importante. Fare dei tagli. Ma questo show. Scusa, ma cioè il concetto di taglio, io non è che vedo, si fa abbastanza un discorso molto superficiale. Io parlo di ristrutturazione, di ottimizzazione del sistema. Punto. Se tu produci televisione ma hai 8.000 persone che in realtà producono solo il 30% della televisione all'interno dell'azienda, una domanda te la devi fare. Bravo. Oh, bravo era Oscar Gine, perché dicevi bravo? Ma bravo perché quello che ha detto Giletti è un elementare, giustissimo criterio che in tanti anni in Rai abbiamo visto trascurato, no? È il motivo per il quale se somme non solo i dipendenti, che sono la somma dei dipendenti di Mediaset, Sky e la 7, ma tutti i collaboratori esterni, c'è un principio, cioè il più o comunque una troppa parte dell'offerta televisiva, questo riguarda la fiction, non solo, è tutta fatta all'esterno, sommando spese. Quello che ci ha appena detto Giletti spiega tante cose dello sbilancio Rai e del fatto che le risorse interne spesso sono le prime che non sono state utilizzate, ottimizzate, sfruttate per quello che sanno e hanno l'orgoglio di fare. È così o no, Massimo? Ma c'è stato quello che si può definire un ipercorporativismo del sistema interno Rai che ha appiattito purtroppo tutto, per cui alla fine quando tu hai delle enormi potenzialità in certe persone che lavorano all'interno ma non le valorizzi, le costringe a subire un sistema che proviene molto spesso dall'esterno, cioè parliamoci chiaro, è chiaro che un'azienda non può produrre tutto all'interno del proprio sistema, quindi deve fare riferimento a società esterne, ma l'enormità di dipendenti, cioè siamo di fronte a un bivio: o torniamo a produrre all'interno, allora spieghiamoci perché, diamo un perché a queste 8.000 persone, se no non c'è altra alternativa che tagliare. Il problema è che se tu produci all'interno devi cambiare le regole con cui produrre, esatto, perché io non posso subire ore di sindacalizzazione su un sistema, io devo andare in onda, per me conta il prodotto, se sono le 8 di sera non mi può arrivare uno e mi dice scusa, sono le 8.01, vado a casa. Questa è la situazione interna. E l'ipersindacalizzazione è quella che ha portato anche alla proclamazione dello sciopero. Che ne pensi di questo sciopero che forse poi non si farà, perché appunto mi sembra che si è squagliato, insomma. Si stia un po' ridimensionando, però da qui all'11 giugno vedremo. Che ne pensi, Massimo? Ora, io sono nato mio padre, mio nonno, mio bisnonno sono industriali, no? Sono sempre stati di un certo tipo di pensiero. Però mio bisnonno per esempio uscì da Confindustria perché diede la mutua gratis prima di Mussolini agli operai, quindi era uno avanti. Lo sciopero oggi mi sembra ridicolo, mi sembra follia, nel senso che tu ti devi confrontare un'opportunità, quella che in fondo ci dà Renzi. Certo, 150 milioni è una cifra enorme, ma fare rispondere con uno sciopero è l'ennesima dimostrazione di quanto sono conservatori certi soggetti. Però prima il presidente della Commissione Vigilanza Rai, Fico, ci diceva dire tagliare 150 milioni a metà dell'anno è un rischio, pone un rischio di svendita, perché è vero riformare, ma dirlo a metà del bilancio è chiaro che si rischia di dover ricorrere a delle svendite per dover soddisfare questa richiesta. Vabbè, una programmazione, questo è il limite, ma se non inizi, certo avrebbe potuto dire partiamo dal 2014, fine, no? Una volta chiuso il bilancio. Il problema, questo c'è, è vero, ed è una cifra importante, ma non può essere un alibi, voglio dire, o ci diamo da fare, o alla fine tutti vogliono cambiare questo paese, ma appena toccano la propria situazione tutti rialziamo gli scudi. Io sono d'accordo con Giletti, perché secondo me il problema è che Renzi ha un merito, quello di essere il primo premier destro-sinistra di tantissimi anni che prende di petto la condizione della Rai, cioè di un'azienda che ha dei numeri sballati, ha problemi interni che derivano dall'eccesso di sovrapposizione di cricche esterne, perché anche questa cosa degli esterni che producono e a cui si appalta si deriva dalla politica, la cosa di cui parlava Giletti, e invece Renzi arriva e la prende in mano, e tra l'altro riesce, hanno fatto un favore a Renzi quelli che senza capire hanno detto scioperiamo, tant'è vero che A, stanno perdendo consensi, e B, lui avanza come un caterpillar. Secondo me anche Renzi si propone solo di cominciarlo il discorso, poi ripeto, qui c'è una ridefinizione generale del servizio pubblico, perché l'obiettivo è quello di discutere la concessione un anno prima, nel 2015, tant'è vero che oggi su un quotidiano leggiamo che c'è una commissione di 9 persone che ha iniziato a pensarci. È vero, arrivano i saggi, Massimo, la sapevi queste cose, ci sono 9 saggi che stanno studiando con il sottosegretario Giacomelli come riformare la RAI, c'è bisogno di saggi per riformare la RAI? Ma guarda, c'è bisogno di uomini che conoscono però il prodotto televisivo e l'abbiano vissuto dall'interno. La TV è una cosa strana, non è un'azienda come le altre, noi non produciamo bulloni o pezzi di ricambio, noi facciamo cultura, produciamo un certo tipo di prodotto che è difficile da mettere in mano a situazioni esterne che veramente possono avere la migliore idea, ma non conoscendo il prodotto. Io sono sempre rimasto smarrito e allibito dal fatto che c'erano molti consiglieri che venivano nominati che si vantavano di non aver mai visto la televisione. Ma come la fai a gestire una televisione se non conosci, se non vai nei reparti veri dove si produce? È lì che si capisce dove si può tagliare, cosa non funziona. E questo sì. Allora, per concludere, una previsione, ma si farà questo sciopero, Massimo? Credi anche tu che non si farà? Guarda, ti posso dire a me che si faccia, non si faccia, non importa. Io credo che la RAI deve ricominciare, io sono uno di prodotto, io lavoro per produrre un programma che deve funzionare e funziona per fortuna, ma la RAI deve cominciare dalla selezione, della formazione degli uomini di prodotto, come succedeva alla RAI di un tempo. Adesso tutti esaltano la RAI di Bernabei, ma quella era strettamente legata alla politica. Era legatissima alla politica, ma gli uomini erano uomini di prodotto che conoscevano bene l'azienda. E poi il direttore generale deve essere un direttore generale che ha poteri, non può essere sempre schiavizzato, sotto controllo, sotto scacco di un consiglio d'amministrazione. E infatti su tutte le domande chiave anche oggi nell'intervista dice porterò in consiglio, sì, parlerò in consiglio. Ma poi in un paese civile non ci deve essere la commissione parlamentare di vigilanza che pretende lei di dire cosa. Questo è il problema. Sono tante cose, ma non siamo un paese. Ma no, è la RAI figlia dello Stato ladro che va smontata, e bisogna rimettere gente che sa fare televisione. Mancava lo Stato ladro. Ma è così, è comunque così. Comunque tutti quelli che mi dicono Juventino, ma si scherza, gli vogliamo bene anche se è Juventino, insomma qualche difetto se lo porta anche lui. Comunque grazie Oscar Giannino, ci fermiamo grazie qui. A tutti. A domani 6:30.